Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. La puntata numero 84 di Picchi di Frequenza, come ogni tanto accade, ha un ospite speciale. Di nome fa Alessandro, di cognome Fagogna. È un alpinista, è uno storico, narratore, grande conoscitore del paese, visto dalle vette più alte. Alessandro Gogna. Le notizie della settimana sono una delle rubriche fisse di Picchi, e anche se non sono farina del nostro sacco, servono ad avere uno sguardo sempre attuale e puntuale su quelli che sono i fatti di montagna e un pochino quello che è il dibattito anche all'interno della comunità che di montagna si occupa. La prima notizia del giorno ci arriva da mountcity.it, uno dei portali che seguiamo pedissequamente. Il titolo è un po' fuorviante: lusso e design ad alta quota, summit di esperti a Milano. All'interno però ci trovate un'intervista a Giuseppe, detto Popi, Miotti. Si parla di come i rifugi stanno cambiando pelle, a partire anche dal suo progetto rifugibivacchi.com, in occasione di un incontro che lo scorso 11 di dicembre si è tenuto all'Università degli Studi di Milano, organizzato da Mountcity. Di certo un adeguamento strutturale dei servizi basilari si è reso necessario, spiega Miotti. Tuttavia ritengo che sia un peccato cercare di stravolgere la peculiarità di queste strutture, che non a caso si chiamano rifugio e non albergo. Ne abbiamo parlato in più di un'occasione. I rifugi cambiano anche per volontà di quelle che sono le grandi associazioni che li gestiscono e che ne hanno la proprietà, e quindi la possibilità di deciderne un pochino quelle che sono le regole d'ingaggio. Giuseppe Popi Miotti, che parla anche dei peccati originali di questa trasformazione, su mountcity.it. Il secondo contributo invece è un fatto più di così più prosaico e più legato a quella che è la manutenzione delle vie ferrate, in particolare lombarde. Arriva da mountainblog.it. completata la manutenzione su 6 ferrate lombarde, interventi nelle province di Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia e Como, praticamente tutte quelle alpine, con l'esclusione della prealpina Varese. Le guide alpine della Lombardia hanno completato i lavori. 6 itinerari su cui sono stati realizzati gli interventi, come annunciato: Passo del Camerozzo, che collega il rifugio Giannetti all'Allevi, lungo il sentiero Roma, il passo di Corna Rossa, che porta al rifugio Ponti e al rifugio Bosio in Valmalenco, e andando così a raccordare il sentiero Roma all'alta via della Valmalenco, e ancora si va avanti, insomma, la direttissima della Grignetta e altre tra le più note. Se volete avere qualche aggiornamento, ricordo che in queste settimane è aperto anche sulla Corna Camozzera, nel gruppo, diciamo, di cui fa parte il Resegone, ma siamo un pelo più a sud, aperto una nuova ferrata. Ma se volete conoscere le sorti di quelle che sono i fix, gli speed che sono stati richiodati, andate a dare uno sguardo appunto a mountainblog.it. Terza e conclusiva news della settimana: travolti da una valanga, una serie di video e lezioni per sapere cosa fare. La redazione di montagna.tv, attenta così ad una pedagogia della montagna anche da un punto di vista tecnico, propone un video dal titolo Know Before You Go, cose da sapere prima di andare, diciamo così. È un video tratto da Vimeo e la sua presentazione, appunto, Informati prima di andare, serve a raccontare come sia possibile trovare delle informazioni su come comportarsi in caso di valanga, quali sono i trick, le accortezze, le attenzioni da ripetere 10 e 100 volte per essere anche nei momenti più psicologicamente e fisicamente impegnativi preparati a tutto. Non solo, come pianificare le uscite, leggere i bollettini neve, studiare l'esposizione, la pendenza dei pendii. Le informazioni sono molto utili e spiegate da chi con le valanghe ha avuto molto a che fare. Il programma è stato pensato nel lontano 2004, 13 anni fa, all'Avalanche Center della Colorado, ed oggi è un corso gratuito e disponibile online dove viene illustrato come fare prevenzioni, quale procedure applicare. Andatevelo a cercare su montagna.tv. Come annunciato in apertura, abbiamo con noi Alessandro Gogna. Chi l'ha intervistato è il nostro Luca Trada. Lascio a lui un ampio spazio, abbiamo deciso di dedicargli un quarto d'ora pieno, intervallato da un pochino di musica, senza fare i due blocchi che tradizionalmente caratterizzano la nostra trasmissione. E con questa, lo ricorderò anche in chiusura, però noi vi salutiamo, perché Picchi di Frequenza si prende qualche settimana di pausa, ci sono le feste anche per noi. Noi ci risentiamo la seconda di gennaio, quindi avete l'occasione oggi di ascoltare la trasmissione, riscoprire nei prossimi giorni un pezzetto del nostro archivio. Ricordate che per ogni singola trasmissione, che trovate su amonte.info ma anche sul nostro profilo Spreaker, avete non soltanto il titolo col suo numerino, ma una sinossi, un piccolo sommario, delle tag che caratterizzano i temi. Insomma, riscoprite quello che vi piace di Picchi, ma soprattutto adesso godetevi l'intervista, l'incontro con Alessandro Gogna. A Picchi di Frequenza abbiamo oggi un ospite di eccezione, Alessandro Gogna, alpinista, scrittore, giornalista, tra i fondatori di Mountain Wilderness. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Ecco, io partirei proprio da qui, da Mountain Wilderness, di cui quest'anno appunto ricorre il trentennale dalla sua fondazione. Quale fu lo spirito, le motivazioni che vi portarono 30 anni fa appunto alla costituzione di questo sodalizio? Fu la presa di coscienza, direi quasi improvvisa, avvenne di colpo, non ci fu un lungo travaglio di idee. Improvvisamente ci rendemmo conto che la montagna, inizialmente pensavamo all'alta montagna, ma poi abbiamo abbassato. La montagna era veramente minacciata da tutta una serie di pericoli che stavano veramente minando la naturalezza e quello che in italiano si potrebbe chiamare selvaggitudine. È stata una cosa improvvisa, un fuoco che si è acceso e insomma i più così stimati alpinisti provenienti da tutto il mondo si sono riuniti a Biella e hanno fondato questa associazione, tra l'altro dopo lunga discussione e stesura anche delle cosiddette tesi di Biella, che sono a tutt'oggi un documento fondamentale. E questo è stato l'inizio, insomma, perché appunto c'erano dei pericoli grossi che allora individuavamo soprattutto negli impianti a fune, nelle strade che venivano costruite su ogni versante di ogni valle, queste sono le cose principali, insomma, che credevamo, ma poi anche l'idroelettrico eccessivo, piuttosto che la costruzione di impianti idroelettrici, leggi dighe. Allora eravamo ben distanti dal pericolo che c'è adesso, cioè dalla cattura delle acque per piccole sfruttamenti dell'acqua, che sono inutili e che sono, li vengono fatti soltanto perché ci sono degli incentivi statali. Certo. Senti, a distanza di 30 anni da quelle tesi e dopo 30 anni di attività, ricordiamo, non solo sulle Alpi ma anche in altre parti del globo, qual è secondo te oggi la condizione dell'ambiente montano, quantomeno nel nostro paese? Allora, la condizione dell'ambiente montano, soprattutto nel nostro paese, in certi punti è davvero drammatica, in altri punti è compromessa, in altri punti è minacciata fortemente, perché sostanzialmente tutti hanno recepito questo messaggio dell'ambiente, eccetera, però alla fine, quando si tratta poi di decidere metro per metro, luogo per luogo, gli interessi, diciamo, locali hanno avuto e possono avere spesso la prevalenza. Non so, adesso per esempio in questo momento c'è la grandissima discussione sugli impianti che collegherebbero l'Alpe San Domenico con l'Alpe d'Evero in Val d'Osso. Certo. E questo è drammatico, cioè, se dovesse succedere sarebbe un insulto al parco, un insulto a decenni di politiche oculate che hanno fatto in quei posti, che stavano cominciando a dare i primi frutti, ecco. Peraltro anche in controtendenza con un clima che invece suggerirebbe ben altre scelte. Sì, ma allora non gliene importa nulla del clima, allora non gli importa nulla che questi impianti abbiano un senso, cioè che poi si possa presumere che funzionino negli anni prossimi. Allora interessa costruire e basta, cioè questo è il punto. Questo è già da un bel po' di anni che è così che l'abbiamo capito, cioè non c'è una funzionalità, certo. C'è un interesse puro di costruire, di muovere macchine, di muovere, far lavoro, insomma. Certo. Questa è l'unica cosa che manda avanti questo disastro. Once upon a time at the foot of a great mountain, there was a town where the people known as happy folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by great clouds. Here they played out their peaceful lives. Diciamo che le logiche, le dinamiche della pianura si sono esportate e amplificate, quantomeno negli effetti nefasti, in montagna da questo punto di vista. Sì, perché mentre appunto 30 anni fa si poteva anche pensare che avessero un senso, adesso questo senso è chiaro a tutti, ma persino a loro stessi, solo che non lo metteranno mai, ma è chiaro anche a loro stessi che non hanno alcun senso, e quindi è la menzogna, proprio la menzogna, è la bolla, la famosa bolla di speculativa che ha fatto crollare le borse, certo. No? Nel 2008, ecco, è la stessa cosa, il meccanismo è quello, cioè certo. Ci si regge su una menzogna che deve continuare ad andare avanti. In time, the strange folk found their... Senti, l'attività con Mountain Wilderness è solo una delle tue tante iniziative che hanno caratterizzato questi anni. Sicuramente, tu parlavi prima, Mountain Wilderness ha cercato di essere coagulo di alpinisti. Io proprio di alpinismo parlerei adesso un po' con te, nel senso, in questi anni ipertecnologici, in questi anni appunto, dicevamo poc'anzi, anche di cambiamenti climatici, che anche sulle alte quote hanno avuto effetti nefasti, di turismo di massa ormai esportato ai campi base himalayani, mi viene da dire. Ecco, quali sono secondo te oggi ancora le nuove frontiere dell'alpinismo, dell'arrampicata? Allora, una delle accuse che è sempre stata ingiustamente rivolta a Mountain Wilderness è stata quella dell'elitarismo, no? E cioè, il sospetto che queste persone che si autoprogrammavano difensori della montagna, eccetera, in realtà volessero la montagna tutta per loro e basta. E questo è veramente una falsità. Mountain Wilderness non ha mai predicato nella maniera più totale né la chiusura di alcune montagne, né il numero chiuso, né cose di questo genere. Casomai l'associazione ha predicato le regole, insomma, che dovrebbero evidentemente far da base a questa frequentazione della montagna. Regole che sono regole del buon senso, sono regole determinate da un sano amore per questi luoghi, che poi nel caso, insomma, del Himalaya o Karakoram, eccetera, dovrebbero essere i primi i governi locali a dover, insomma, propugnare e difendere e imporre anche queste regole, no? Perché evidentemente il turismo da quelle parti deve continuare, la gente deve andare, deve perché vuole, insomma, certo. Per questioni anche di libertà, cioè prima di tutto anche la libertà dell'uomo, no? Non è soltanto la difesa dell'ambiente, ma questa libertà non deve cozzare contro un disastro ambientale che invece viene determinato dall'abuso di questa libertà. Certo. E quindi la situazione qual è? Che nelle alte quote evidentemente i governi tipo Nepal o India hanno altro a cui pensare, non gliene frega assolutamente nulla del loro ambiente, pensano che il loro ambiente sia ancora la dimora degli dèi, tutto sommato, e che quindi sia intoccabile, cosa non vera purtroppo, magari lo fosse. E quindi continuano ad agire per il soldo, ma questo è anche comprensibile. Siamo noi che dobbiamo cambiare, non loro. Certo. Siamo noi che abbiamo portato l'alpinismo là, che abbiamo portato l'alpinismo e il turismo ad alta quota e il trekking. Siamo noi che dobbiamo cambiare, non sono loro. Certo. Si può pretendere. Sì, il giorno che loro vedranno che noi staremo attenti a determinate cose, magari lo saranno anche loro. Ecco. Chiaro. Ma al momento non è così. Alessandro, una domanda se vogliamo più personale. Nella tua carriera alpinistica hai aperto nuove vie, molte, hai fatto prime importanti ripetizioni di vie un po' ovunque. Se dovessi, come dire, riassumere per difficoltà o per emozioni che ti hanno lasciato, quali sceglieresti? Quali, come dire, le tue vie del cuore, ecco. Ma ti risponderò con una cosa che rispondo sempre, ma che comunque vedo che è considerata abbastanza strana, e cioè che per me diciamo l'impresa alla quale sono più legato proprio sentimentalmente, emozionalmente, è proprio quella che oggettivamente era una grossa impresa, insomma, per quel tempo, ma insomma per quel tempo era veramente eccezionale, e che ho avuto a questo punto direi anche fortuna, non solo l'abilità, ecco, insieme al mio compagno Leo Cerruti, di condurre, di portare a termine, avendone ancora, cioè arrivando in cima e dicendo: beh, avrei potuto anche sopportare qualcosa di più. Non so se riesco a spiegare. Sì, chiaro, cioè, chiaro. È l'impresa in cui io so con certezza che il rischio, che purtroppo è legato, purtroppo insomma per natura è legato all'alpinismo, questo rischio in qualche maniera è stato da noi contenuto, è stato affrontato nella maniera giusta, con timore, con rispetto, con umiltà, e abbiamo avuto anche un po' di fortuna ovviamente, ed è andato tutto così bene, ma così bene che quasi da sentirsi in stato di grazia. Ed è questo sentirsi in stato di grazia, secondo me, la ricompensa più bella che si ha dalla propria attività alpinistica, e non è che avviene tutte le volte, anzi avviene raramente purtroppo. E la via più dura invece che ti ha toccato nel senso che ti è capitato di affrontare da un punto di vista alpinistico? Allora questa diciamo è quella a cui ti ho nominato, cioè il naso di Smut a Cervino, è sicuramente stata la più emozionale e anche la più difficile poi tecnicamente, insomma. Ho capito. Altre volte magari me la sono vista brutta, poche per fortuna, ma queste volte non si riferiscono alle mie imprese più importanti. Certo. Si riferiscono magari a qualche cosa che ho fatto e che per qualche motivo, insomma, qualcosa è andato storto, ecco. Chiaro. Per fortuna non sono state tante, ma potrei citarti due o tre casi, ma non direbbero niente a nessuno. Certo. Senti, un'ultima domanda. Una per esempio è la salita della Micheluzzi alla Marmolada, dove veramente credo di aver superato dei limiti, ecco, cioè purtroppo li ho superati, mi è andata bene ma li ho superati, e quindi questo sicuramente me lo ricorderò per sempre. Senti, dicevo, un'ultima domanda, progetti futuri di Mountain Wilderness, a parte appunto il discorso che facevamo prima sull'Alpe d'Evero e San Domenico? Ah, sai, appunto, Mountain Wilderness cerca di educare, quindi è chiaro che le priorità sono quelle che succedono giorno per giorno, mese per mese. Azioni eclatanti diventa sempre più difficile farle, perché ormai la pubblica opinione è avvezza a qualunque cosa, insomma non si meraviglia più di niente. Certo. E questo diventa appunto fatto la difficoltà, insomma, di imporsi all'attenzione pubblica, no? Di un pubblico che non è magari esperto e che non ha presente questi problemi fino in fondo, non vede la gravità, insomma, di questo uso della montagna che si fa quotidianamente, e questa è un po' la nostra azione principale, cioè un'azione di educazione. Credo che andremo avanti su questa strada qua, sperando di essere comunque anche aiutati da altri, di fare le azioni insieme ad altri, cosa che sta succedendo. Ecco, noi nel nostro piccolo, da queste libere frequenze, cerchiamo sempre in ogni puntata di picchi di frequenza appunto di coniugare quello che tu dicevi, l'amore per la montagna, il rispetto per l'ambiente che ci circonda, un approccio umile, giusto e non invasivo, perché appunto la montagna, le montagne continuano a essere quei luoghi che tutti amiamo e quella natura incontaminata che vorremmo. Alessandro, grazie di tutto, grazie per questa intervista e a presto da queste onde. Grazie a tutti voi dell'attenzione, ciao. Ciao. Ashram civilization. questa settimana non abbiamo le segnalazioni, nel senso che c'è qualche appuntamento qua e là, ma abbiamo preferito mantenere uno spazio per una piccola comunicazione che tante volte vi abbiamo già propinato e perché no una volta di più. È ancora aperto e mancano pochi giorni il crowdfunding di Ape Roma. Ape Roma è la sezione capitolina dell'Associazione Proletari Escursionisti. Come ormai saprete se seguite un pezzettino della nostra trasmissione, e non importa essere grandi appassionati di montagna, l'Ape ha aperto un rifugio, l'ha aperto a Poggio Catino, nei pressi del Monte Tancia o di Poggio Mirteto, per chi conosce i Monti Reatini. Siamo a nord di Roma, anzi a nord-est di Roma, in provincia di Rieti. Il rifugio è in concessione per 5 anni, ma necessita di grandi lavori di ristrutturazione. In più di un'occasione li abbiamo seguiti, incontrati, hanno parlato ai nostri microfoni, siamo stati in occasione dell'inaugurazione del rifugio e vi abbiamo proposto il meglio di quella giornata anche qui dai microfoni di Picchi di Frequenza. Oggi hanno aperto un crowdfunding, è aperto ancora per qualche giorno, lo trovate sul network di Produzioni dal Basso. È un crowdfunding sostenuto da Banca Etica, a patto che si raggiunga la cifra preposta. La cifra è importante, anche se non fuori portata, di 15.000 euro, che serviranno, come raccontato, per una serie di lavori strutturali, impiantistica, tetti, coibentazione ed allestimento di uno spazio che sarà non soltanto una casa base in vetta per l'associazione, ma anche un luogo aperto e conviviale per tutti voi. Quindi perché no fare un piccolo sforzo, anzi due, uno per sostenere direttamente con una donazione l'Ape capitolina, appunto per ricostruire questo rifugio, il rifugio di Trio Poggio Catino, e dall'altra parte però anche uno sforzo per condividere e far circolare ostinatamente il sogno di avere un rifugio per tutta la congrega dell'Ape. Anche questa puntata era la numero 84 in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, spero vi sia piaciuta. Come tutte le puntate, anche questa numero 84 è disponibile in streaming e download in formato MP3, anzitutto all'indirizzo amonte.info. Lì trovate tutto il nostro archivio completo, fruibile, condivisibile. Potete, insomma, utilizzare i vostri canali, quelli umani e quelli digitali, per far conoscere questo nostro piccolo esperimento, questa nostra piccola trasmissione. Come di consueto ci trovate anche sui social media, su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza, su quello azzurro all'account @abuzzo3, e ci fate un grande favore se aiutate me, Abo, Martino e Luca a far conoscere Picchi di Frequenza. Per tutto il resto ci trovate non venerdì prossimo, perché si va in vacanza per qualche settimana, ma alla metà di gennaio, venerdì alle ore 20 in punto, sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.